È la sera del 5 giugno 2006 quando i fratellini Francesco e Salvatore Pappalardi, 13 e 11 anni, scompaiono. «Noi ce ne andiamo», avevano detto agli amici in piazza Quattro Fontane a Gravina, a poche centinaia di metri dal luogo del presunto ritrovamento. Il giorno dopo i genitori che vivono separati lanciano un appello in TV. Le ricerche vanno avanti per giorni. Forze dell'ordine, speleologi, volontari setacciano grotte e vecchi casolari. Gli inquirenti seguiranno anche una pista romena, poi rivelatasi falsa. Il 27 novembre 2007, 17 mesi dopo la scomparsa, viene arrestato il padre Filippo Pappalardi. A suo carico la testimonianza di un ragazzino che dice di averlo visto con i bambini e una serie di intercettazioni. L'uomo, che si professa innocente, è accusato di averli uccisi per futili motivi. Gli avevano disubbidito. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore.